Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Finalmente abbiamo anche la possibilità finanziaria per investire, e che quest'anno sia un anno speciale, nel senso di riuscire a superare quelle carenze strutturali e tramutare quella che è un'emergenza in un'opportunità. Conte lo sottolinea più volte in questi giorni a proposito dei recovery fund, delle 209 miliardi di fondi europei che la Commissione europea si appresta a dare all'Italia, molti miliardi anche per gli altri paesi, ma questa è la cifra più consistente, quella che entro il 2021 arriverà all'Italia, e insiste appunto Conte anche perché sull'importanza di questa sfida, perché proprio ieri il governo ha trasmesso il piano per l'utilizzo, con le intenzioni, insomma le linee guida di come intende utilizzare questi fondi alle Camere, che poi lo discuteranno, e oggi invece la Commissione europea che ha pubblicato le proprie linee guida. Quindi ci concentreremo su questi aspetti così importanti per il rilancio dell'Italia, vista appunto la grave crisi economica causata dal coronavirus. E poi, a proposito di coronavirus, torneremo sull'allarme dell'OMS per l'Europa, che dice che l'Europa va molto bene. Se pensate che oggi solo in Francia, in un solo giorno, 10.000 nuovi casi, parte della Gran Bretagna potrebbe tornare in lockdown nelle prossime ore, Israele per esempio da domani torna per 3 settimane in lockdown totale. Quindi diciamo, noi per il momento ce la caviamo abbastanza bene, ma capiremo anche meglio la nostra situazione con il noto virologo Pregliasco. Poi, fra le altre cose, per il meteo c'è un ciclone nel Mediterraneo, in particolare nella zona dello Ionio, che insomma sta creando parecchi disagi nella parte, in varie regioni del sud Italia, Sicilia, Puglia, Calabria, e anche di questo insomma parleremo, così anche della partita del Milan. C'è un po' di tutto, come sempre, grande ricchezza nella puntata di Effetto Notte. Prima vi racconterò in sintesi le notizie più importanti e poi ospiti per approfondire alcune di queste. Per i vostri commenti c'è sempre la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure i WhatsApp al 349 238 6666, 349 238 6666. Poi controllo che effettivamente funzionino e arrivino. Partiamo intanto. La pandemia di coronavirus, allarme dell'OMS sull'incremento dei contagi in Europa, definita molto grave, in cui i numeri sono, dice l'OMS, una sveglia. Ancora in lieve aumento i contagi da Covid in Italia, torna il lockdown da domani in Israele e in parte della Gran Bretagna. Ordinanze regionali, respinta quella della Sardegna che obbligava ad avere un certificato per arrivare sull'isola, e accolta invece quella del Piemonte che impone alle scuole piemontesi di misurare la febbre degli studenti all'arrivo a scuola. L'incontro tra Mattarella e il presidente tedesco. Il capo dello Stato ringrazia Steinmeier per la posizione assunta in ambito europeo, dice il futuro ci chiede la ripresa. La giornata europea, la Commissione pubblica le linee guida su come utilizzare i recovery fund e il Parlamento europeo adotta risoluzioni contro il presidente bielorusso e, per il caso Navalny, contro la Russia. L'omicidio di Willy, gli accusati ricevevano, senza averne diritto, il reddito di cittadinanza, percepiti circa 30.000 euro. Meteo, un ciclone mediterraneo sta imperversando su parte del sud Italia, in particolare nelle zone ioniche. Cinema, il film di Vanzina sul lockdown, pubblicata alla Locandina, e si scatenano le polemiche sul Covid, non si scherza. Partiamo quindi dai dati sulla pandemia da coronavirus. In Italia il numero dei contagi sostanzialmente è sotto controllo, non è così in altri paesi, a cominciare dalla Francia, e domani scatta il lockdown in Israele, chiusura anche in parte della Gran Bretagna. Sono quasi 30 milioni le persone che sono state contagiate dal coronavirus nel mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, quasi 1 milione le vittime. La metà dei contagi mondiali riguarda 3 paesi, Stati Uniti, India e Brasile. In particolare l'India ha segnato un altro balzo record delle infezioni giornaliere, con quasi 98.000 casi nelle ultime 24 ore e oltre 1.000 persone morte di Covid-19 in un giorno. In Europa la Francia ha iniziato a richiudere le scuole, 81 istituti. L'epidemia è di nuovo molto attiva nel nostro paese, ha detto il ministro della Salute, mentre il ministro della Salute inglese ha deciso che tornano in Gran Bretagna in lockdown 2 milioni di persone, quasi tutte nel nord-est del paese. E mentre il soprano Annanette Rebko, diva della lirica e ricoverata in ospedale positiva al coronavirus con polmonite da 5 giorni, Israele si prepara al secondo lockdown che entrerà in vigore da domani e durerà almeno 3 settimane. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo delle ordinanze regionali. In Italia arrivano 2 sentenze del TAR. La prima che dà ragione al governo sulla certificazione Covid-free per entrare in Sardegna, cioè non sarà obbligatorio avere il certificato come invece prevedeva la Sardegna. La seconda dà invece ragione al Piemonte sulla misurazione della febbre a scuola, di cui abbiamo parlato molto proprio col presidente del Piemonte Cirio qui a Effetto Notte. Contagi in lieve aumento, nelle ultime 24 ore 1585 nuovi casi a fronte di quasi 102.000 tamponi, un migliaio più di ieri. Stabile l'incremento delle vittime, nessuna regione a 0 casi. Questo il nuovo bollettino, mentre i tribunali amministrativi intervengono quasi contemporaneamente su 2 provvedimenti regionali, in un caso quello della Sardegna, accogliendo la sospensiva del governo e bocciando dunque l'obbligo di test per tutti i passeggeri in arrivo nella regione imposto dal presidente Solina dal 14 settembre al 7 ottobre. Polemico il commento del governatore, secondo il quale si usano 2 pesi e 2 misure, perché mentre in Sardegna si impugnano ordinanze adottate per tutelare la salute pubblica, dice, in altre parti del paese si adottano ordinanze discriminatorie nei confronti dei sardi, prevedendo test e quarantena per chi proviene dall'isola. Di segno opposto invece l'altra decisione del TAR, che ha dato invece ragione al Piemonte sulla misurazione della temperatura degli studenti a scuola. È dispiaciuto, si dice, il presidente della regione Alberto Cirio per il fatto che il governo sia entrato in contrasto con il Piemonte invece che considerarlo un esempio. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Dall'incontro a Milano oggi col presidente tedesco Steinmeier arriva l'appello del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che dice: la ricerca scientifica non ha confini, per cui un'alleanza per i vaccini è una condizione e una realtà di particolare importanza. Bisogna restare vigili, abbiamo di fronte a noi un percorso che speriamo si concluda in fretta, ma dobbiamo approcciarci a un futuro che ci interpella su prospettive di ripresa. Così il presidente Mattarella rinforza ancora i messaggi della prima parte dell'incontro bilaterale a Palazzo Reale in mattinata. Da Milano, sottolinea Mattarella, parte un forte messaggio di integrazione europea. Non vede solo uniti i 2 paesi per combattere il coronavirus, ma anche per rilanciare l'Europa sul fronte migranti, per trovare, come invita Steinmeier, una sistemazione dignitosa, come su quello economico. La posizione della Germania è stata decisiva per dar vita a quello che è diventato il Recovery Fund. I 2 capi di Stato hanno lanciato anche un premio incontrando i sindaci delle città gemellate italo-tedesche. Segno della solidarietà tra i 2 paesi anche l'incontro con alcuni degli ex pazienti di Covid-19 dei 44 soccorsi dalla Germania, tra loro il primo ricoverato, Felice Perani, di Bergamo. È come avere avuto una seconda mamma, cioè la prima mamma naturale e la seconda putativa della Germania. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si parla di ripresa, quindi, anche grazie ai finanziamenti europei, come si diceva, che arriveranno dai Recovery Fund. Ieri il governo ha trasmesso le linee guida del piano per utilizzare i fondi europei alle Camere. Oggi la Commissione europea ha pubblicato le sue linee guida e ci torneremo nel corso di questa puntata, insieme anche a 2 risoluzioni adottate oggi dal Parlamento europeo. Siamo al tema dell'occupazione. Crollano le assunzioni nel primo semestre dell'anno in Italia. L'emergenza Covid, secondo l'osservatorio INPS sul precariato, ha ridotto del 42% le attivazioni dei contratti nel settore privato. Tra gennaio e giugno le assunzioni sono state infatti poco più di 2.300.000, aprile è stato il mese peggiore. E ammonta a 2.200 euro lordi il premio di produzione per i circa 6.000 lavoratori della Ferrero. È quella della Nutella, naturalmente, quanto prevede l'accordo siglato tra aziende e sindacati, che esprimono piena soddisfazione e come non essere soddisfatti del resto. Politica, 3 giorni dal referendum regionale, dibattito politico concentrato sull'appuntamento elettorale del 20 e 21 settembre. La Commissione parlamentare antimafia annuncia intanto che sono in tutto 13 candidati impresentabili alle regionali, rinviati a giudizio o colpiti dalla legge Severino. Sono in Campania, Puglia e un po' in tutti i partiti. Il premier Giuseppe Conte conferma il suo sì al referendum e lo fa difendendo il patto con il PD per altre riforme. Può essere anche un primo passaggio per contribuire a valorizzare ancora di più e anche in termini di autorevolezza dei lavori parlamentari e del ruolo dei parlamentari. Nel Partito Democratico pesa intanto il no annunciato dal primo segretario Walter Veltroni, mentre prosegue la campagna di Più Europa per il no, il segretario Benedetto Della Vedova. Non c'è nessuna riforma a cui dire sì, ma solo un taglio irragionevole e brutale nel numero dei rappresentanti degli elettori italiani in Parlamento. Il centrodestra punta invece soprattutto sulle regionali, con il leader della Lega Salvini che batte a tappeto la Toscana per tentare il colpaccio. Il segretario PD Zingaretti insiste sull'Europa: solo grazie a noi abbiamo i fondi per risollevare l'Italia. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. I viaggi di Radio 24. E siamo al consueto appuntamento di questa settimana con le regioni al voto. Tocca oggi alla Campania. Nella campagna dei Viceré e dei Fermo Immagine, stessi sfidanti di 5 anni fa, in questa corsa alla guida della regione da quasi 6 milioni di abitanti e un bilancio da 25 miliardi. Il futuro è già iniziato, scrive nel programma il governatore uscente Vincenzo De Luca, PD, che può contare su 15 liste e su una gestione della pandemia che, tra la minaccia di lanciafiamme e Covid Center al centro poi di inchieste, ha tenuto in gran parte al riparo la regione dal contagio. Rispetto a 10 e a 5 anni fa, però, quando a parti invertite la sfida era comunque tra De Luca e Stefano Caldoro, Forza Italia, ex presidente della Campania e ministro del governo Berlusconi, ci sono 4 ospedali in meno a Napoli e tassi più alti di disoccupazione, contestano i detrattori. Liberiamo la Campania dal sistema De Luca, lo slogan del leader della Lega, in una campagna elettorale concentrata oltre che sulla sanità, sugli altri problemi di sempre, dai rifiuti alla camorra. Abbiamo un governatore che nega la terra dei fuochi e un ex che vorrebbe un inceneritore per provincia, attacca la candidata 5 Stelle Valeria Ciarambino, anche lei un déjà vu di 5 anni fa. Per il seggio più alto di Palazzo Santa Lucia corrono anche Sergio Angrisano, Terzo Polo, Giuseppe Cirillo, Partito delle Buone Maniere, Giuliano Granato, Potere al Popolo e Luca Saltamacchi a terra. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo alla cronaca, si attesta intorno ai 33.000 euro, la cifra che i 4 del branco di Colleferro che hanno picchiato a morte Willy avrebbe percepito indebitamente come reddito di cittadinanza. In base a quanto si apprende, Marco e Gabriele Bianchi, Francesco Belleggio e Mario Pincarelli avrebbero omesso di indicare nelle autocertificazioni compilate dati dovuti, creandosi in tal modo le condizioni per accedere al beneficio. Alla luce di una serie di accertamenti, la Guardia di Finanza di Colleferro li ha denunciati per violazione della legge che regola il reddito di cittadinanza. Però per gli sviluppi ulteriori di questa inchiesta, anche quella che riguarda l'omicidio a Como di Don Roberto Malgesini, poi ci sarà spazio nel corso di questa puntata. Meteo, un ciclone mediterraneo sta imperversando su parte del sud Italia e in particolare nelle zone ioniche. Poi sentiremo il nostro meteorologo di fiducia. Parlo anche di questa scoperta: in embrioni umani staminali sono state trovate staminali superpotenti. Negli embrioni umani, queste cellule staminali superpotenti, con una capacità di moltiplicarsi e una robustezza da 200 a 500 volte superiore rispetto a quelle prelevate dal cordone ombelicale. La scoperta, pubblicata sulla rivista Stem Cell Reports dal gruppo dell'Università Scozzese di Edimburgo, potrebbe diventare in futuro uno strumento importante per la cosiddetta medicina rigenerativa. E passiamo al cinema. I social hanno già emesso la loro sentenza: è bastata l'immagine della locandina del prossimo film di Enrico Vanzina per far gridare allo scandalo. Sarà una commedia sulla quarantena a cui siamo stati costretti dall'emergenza Covid. Nel cast troviamo Ezio Greggio, Ricky Memphis, Paola Minaccioni e Martina Stella. La storia è quella di due coppie che stanno per lasciarsi, ma a causa del lockdown sono costrette a vivere forzatamente sotto lo stesso tetto. Trama, cast e anche locandina non raffinatissima fanno pensare a una commedia italiana, magari un po' ruspante, ma sui social l'hashtag lockdown all'italiana porta a reazioni durissime. Ma non vi vergognate neanche un po', scrive un utente su Twitter riferendosi alla produzione Medusa. Non bastavano più di 35.000 morti? Ci voleva anche l'ennesima cialtronata di Vanzina? In realtà, Vanzina a parte, usciranno moltissimi film con il lockdown come soggetto. Forse altri registi saranno meno bersagliati per partito preso. La verità è che nessuno ancora ha visto il film e per chi vorrà comunque stroncarlo, ma con cognizione di causa, bisogna attendere l'uscita il 15 ottobre. Per il resto al momento c'è solo una locandina. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Mentre è in campo effettivamente il Milan, caro Giovanni Capuano, in Europa League, questa sfida. Ciao Giovanni. Ciao, è la prima delle tre sfide che si spera portino il Milan dentro i gironi dell'Europa League, traguardo particolarmente importante in questa stagione per il club rossonero per mille motivi, a partire da quello economico, perché in mesi in cui i ricavi sono in forte contrazione per tutte le società, il tesoretto dell'Europa League, che pure non è quello della ricchissima Champions League, può fare comunque comodo. Siamo al 16° minuto, appena iniziato della ripresa, il Milan sta giocando a Dublino in Irlanda contro lo Shamrock Rovers e i rossoneri, che sono questa sera in maglia verde, sono in vantaggio per 1-0. Decide fin qui la rete realizzata da Zlatan Ibrahimovic al 22° del primo tempo. Ibrahimovic che ha chiuso un dialogo con Calhanoglu scaricando un destro sul primo palo. Ibra che torna al gol in Europa con la maglia del Milan dopo 5 anni, non segnava dal 12 febbraio del 2015, allora in Champions League contro l'Arsenal. Ibrahimovic è stato il faro di questi primi 60 minuti del Milan qui a Dublino. È stato un buon Milan anche nella ripresa, nel primo quarto d'ora è andato vicinissimo 2 volte al raddoppio, sempre con Calhanoglu, che ha colpito anche al nono la traversa in rovesciata. Attenzione però, perché lo Shamrock Rovers, che sulla carta è molto più debole del Milan, in realtà il presupposto per qualche occasione l'ha creato in questa prima ora di gioco, soprattutto nel primo tempo. Ci sono state insomma un paio di situazioni con Green e Finn che hanno costretto la difesa del Milan e Donnarumma a sbrogliare il pericolo prima che diventasse tale. Dunque siamo 1-0 per il Milan, 62esimo, Milan che conosce già eventualmente il nome della prossima avversaria, sono i norvegesi del Bodø Glimt, partita che si giocherà se Milan vince questa sera il 24 settembre. Grazie Giovanni Capuano, poi ci aggiornerai su come prosegue questa partita. Invece noi proseguiamo tra poco dopo la viabilità, dopo gli aggiornamenti per chi sta viaggiando, con i temi da approfondire insieme agli ospiti. Per i vostri messaggi 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte. Ringrazio Francesca, Francesco, Anna e poi molti altri messaggi molto simpatici che stanno arrivando, mentre questi sono sempre presenti per fortuna. E poi chi commenta, per esempio, c'è Carla da Roma che dice: a proposito del Covid-19, ho capito che il mondo è diviso in due, chi rispetta gli altri e chi no, e questi ultimi sono un bel guaio. Che fare? Dice, che fare? Pare che insomma molti la lezione non l'abbiano imparata, speriamo appunto che non creino danni per il prossimo. A tra poco. Logica, spazio-tempo, Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci di nuovo insieme, Roberto Giordano con voi per partire per tutta questa carrellata di notizie da chiarire e approfondire con gli ospiti. Intanto, a proposito di chiarimenti, di precisazioni, questa piccola rettifica, nel senso che ieri un ascoltatore via WhatsApp aveva chiesto all'ospite nello spazio politico perché Enrico Rossi, presidente della regione toscana uscente, non si ricandidasse. L'ospite aveva detto perché è uscito dal Partito Democratico. In realtà poi l'ufficio stampa di Enrico Rossi precisa giustamente che fa sempre parte, iscritto al Partito Democratico e non si può ricandidare perché si è candidato la prima volta, è stato eletto nel 2010 e riconfermato nel 2015 e dopo 2 mandati non ci si può più ricandidare. Bene, detto questo, cominciamo allora con gli ospiti. Poc'anzi abbiamo incontrato insieme il presidente Steinmeier ed io alcuni di questi pazienti tornati qui in buona salute e alcuni medici, operatori tedeschi e italiani. È stato un incontro fortemente coinvolgente, denso di significato e anche denso di sentimenti. Mattarella, lo avete sentito, oggi lo ha ricordato a Milano il Presidente della Repubblica nel suo incontro col Presidente tedesco Steinmeier, ha ricordato, dicevo, il periodo più terribile dell'epidemia di coronavirus in Italia, durante il quale, fra le altre cose, qualche decina di pazienti italiani, ricordate che le terapie intensive erano veramente, i medici, infermieri erano oberati, le terapie intensive erano ormai sature, quindi qualcuno, una decina, qualche decina, anzi una quarantina di persone sono state trasportate in Germania. La Germania ha accolto diversi nostri concittadini per curarli. Mattarella lo ha ricordato e anche sottolineato: siamo ancora in pieno tempo Covid, ma speriamo di aver lasciato alle spalle la parte più insidiosa della pandemia, quello che speriamo tutti, anche ha detto se non si deve abbassare la guardia. Allora, diamo uno sguardo ai dati italiani di oggi, che già avete sentito nella sintesi della giornata, per qualcuno non fosse stato puntuale, li ripeto brevemente, c'è stato un lieve aumento dei contagi di Covid nelle ultime 24 ore, 1585 nuovi casi rilevati con 101.773 tamponi, un migliaio di più rispetto a quelli effettuati ieri di tamponi. Le vittime ieri erano 12, oggi sono state 13, e il totale complessivo dall'inizio dell'epidemia in Italia è di 35.658. E subito allora coinvolgo il professor Pregliasco, Fabrizio Pregliasco, che torna qui a Effetto Notte. Grazie, bentornato professore. Eccoci qua, una buona serata per tutti. Virologo che insomma non ha bisogno certamente di presentazioni, molto divulgativo, molto competente, stacanovista, veramente penso che sia riposato pochissimo in questo lungo periodo difficile. Allora, diciamo che forse noi tutto sommato, non vorrei dirlo troppo avventatamente, però in Italia non ce la caviamo malissimo, perché se consideriamo per esempio che Israele da domani chiude totalmente, di nuovo un lockdown totale per 3 settimane, poi c'è la Gran Bretagna che si prevedono, almeno dai titoli che vedevo, 10 milioni di persone in lockdown in una parte del paese, e che la misura potrebbe essere estesa anche alla capitale in 2 settimane, a Londra. E poi c'è anche l'allarme proprio più generale dell'OMS, dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che avverte, dice, il livello di trasmissione in Europa è preoccupante, i numeri dei contagi registrati nelle ultime settimane devono servire da sveglia. Quello che si sta verificando in Europa, dice il capo regionale dell'agenzia ONU Kluge, è una situazione molto grave. Oltre la metà dei paesi europei hanno registrato aumenti di oltre il 10% nelle ultime 2 settimane, in 7 paesi l'incremento è stato pari a più del doppio. Per esempio oggi vedevo la Francia e in 24 ore 10.000 nuovi casi. Che dice, professore, della nostra situazione? Siamo bravi, direi. I nostri dipartimenti di prevenzione a livello nazionale finora sono stati in grado di isolare, identificare e spegnere questi focolai, che sono un fatto naturale. La situazione è quella di un passaggio dalla forma epidemica alla forma endemica del virus, e quindi alla convivenza. Abbiamo lavorato bene durante il lockdown, perché siamo partiti sicuramente più bassi rispetto ad altre nazioni, e quindi ad oggi io rimango ottimista rispetto a una situazione che andrà a vedere numeri in crescita, questo sicuramente, e questo dobbiamo tenerne conto, ma con una capacità di limitare questo incremento. È chiaro che la scommessa è su due fronti: sul fronte organizzativo, sulla capacità di individuare e continuare a fare test nel modo più massiccio possibile, potenzialmente all'organizzazione, alla capacità tecnica, ma anche quello che deve essere l'impegno di ognuno di noi come cittadino, che deve in qualche modo non mettere lì la gamba, fare lo sgambetto all'organizzazione, che sta lavorando ad oggi, direi, al meglio. E per fare lo sgambetto significa non usare quel buon senso che durante il lockdown è stato attuato dalla maggioranza dei cittadini, perché davvero la seconda ondata, una situazione di incremento notevole di nuovo dei casi, io la vedo ancora oggi come ipotesi teorica su cui lavorare per organizzarsi dal punto di vista delle strutture, delle terapie intensive, dell'organizzazione di reazione, in modo che di essere preparati a quello che sarà, ribadisco ancora, un autunno caldo sul versante comunque dell'incremento del numero di casi. Professor Pregliasco, sempre l'OMS però ha di nuovo confermato, già lo aveva fatto in parte nei giorni scorsi, sa che la Francia ha deciso di ridurre la quarantena da 14 a 7 giorni, l'Italia stava pensando a una mediazione magari sui 10 giorni, però l'OMS oggi ha ribadito nuovamente l'isolamento per chi ha contratto il coronavirus deve restare di 14 giorni. Lei che ne pensa? Ma i 14 giorni è, direi, la misura giusta e più protettiva. È chiaro che le scelte intermedie colgono un elemento di rischio rispetto a una potenziale contagiosità della persona. Vero è che comunque sono i primi 5 giorni quelli dove la carica virale, la presenza del virus, la viremia, come si dice, cioè la presenza del virus nell'organismo, è più elevata. ed è una mediazione, sono opzioni che ovviamente facilitano l'attuazione, perché sicuramente molti nostri concittadini avranno schivato in qualche modo l'isolamento, o meglio l'individuazione, la cura, rischiando per se stessi, ma rischiando soprattutto per gli altri, facendo finta di nulla. Questo è l'elemento. L'importante è dire anche un'altra cosa: i 1500 casi di oggi sono diversi dai 1500 casi dell'inizio dell'epidemia, perché ora noi in qualche modo stiamo carotando, diciamo così, una serie di casi di soggetti asintomatici che ci fanno capire come questa malattia sia banale, a basso rischio specifico, e che ci sia questa quota di asintomatici, sicuramente meno contagiosi di chi tossisce, di chi emette droplets in grande quantità, ma che sono stati, come dire, la causa della diffusione iniziale del virus, cioè soggetti inconsapevoli che hanno poi creato quell'iceberg che ha determinato lo tsunami, in particolare in Lombardia. Professore, c'è Francesco al 349-238-6666, numero per WhatsApp, che dice: attenzione però, perché noi abbiamo numeri migliori anche perché facciamo molti meno tamponi di quasi tutti gli stati europei. Mi dica solo sì o no, se è così, professore, che abbiamo tante altre cose. Non del tutto, però è giusto quello che considera l'ascoltatore, perché più positivi troviamo, più li controlliamo, meno contagiano. Invece un altro ascoltatore dice: professor Pregliasco, è possibile che in Italia si stia verificando un'inversione di tendenza rispetto a quella che è successo in primavera, quando l'Italia è stato il primo paese ad essere contagiato? Cioè, è possibile che ora sia l'Italia a essere in ritardo con la diffusione dei contagi rispetto, per esempio, alla Francia? Anche qui, se riesce a dare una risposta sintetica, professore. Sicuramente siamo stati con un lockdown più lungo, partiamo da un livello più basso, e quindi sicuramente possiamo limitare la ricrescita, perché è comunque un destino a cui far riferimento. Bene, poi per quanto riguarda la scuola, naturalmente ufficialmente ha riaperto lunedì 14, però come era prevedibile sta facendo registrare ogni giorno casi positivi, no? Chiudono delle intere classi, a volte delle sezioni. Il ministro della Salute e Speranza si è detto però ottimista, ha detto: nessuno ha la bacchetta magica, nessuno può fare miracoli, ma il paese è forte, sta dimostrando di saper vincere anche questa partita della riapertura delle scuole. Che dice, professore? Di fatto è uno stress test che era un rischio diciamo da correre, e questi aspetti sia organizzativi di carenza, di mancanza magari di spazi, di organizzazione nella fase iniziale, erano un momento di stress test appunto per tutta l'organizzazione. Però ovviamente l'aspetto scientifico riguardante l'apertura o non apertura è limitato, mi spiego, cioè siamo in una prova dal vivo rispetto a delle procedure che, al di là del concetto generale, meno contatti ci sono, meglio è, poi è difficile realizzarli e, diciamo, realizzarli sartorialmente per limitare i fastidi. Comunque ci saranno, in termini di rallentamenti, di qualità della vita, insomma, di fastidi, e sicuramente di focolai che si susseguiranno. Professor Pregliasco, poi oggi ci sono state delle sentenze su due ordinanze. Allora, la Sardegna aveva imposto un certificato Covid-free per arrivare sull'isola ed è stato respinto. Invece l'ordinanza della Regione Piemonte, del Presidente Cirio, che è stato qui più volte a Effetto Notte a spiegare la sua ordinanza, cioè di obbligare le scuole rispetto invece alle famiglie a rilevare la temperatura, il Ministero dell'Istruzione aveva impugnato questa ordinanza, e invece oggi il TAR dà ragione a Cirio. Molto brevemente, professore, lei è d'accordo sul fatto che si debba rilevare a scuola? Non sarebbe giusto forse fare tutte e due le cose, a casa, perché così si evita magari di far uscire il bambino o ragazzo o la ragazza se è malato, e poi per un'ulteriore verifica a scuola, proprio sinteticamente, che dice? Sicuramente due controlli incrociati utili. È chiaro che, come dicevo prima, si tratta di valutare gli aspetti organizzativi conseguenti, il tempo maggiore di ingresso nelle aule, quindi possibilità di affollamento. Di sicuro comunque è in mano alla famiglia il controllo, anche perché una mamma che vuol mandare il bambino a schivare i controlli può dargli una bella dose di paracetamolo facendo malissimo in questo senso, ma quindi comunque no, in qualche modo schivando questi controlli. Invece io non so se chiederle del vaccino, professor Pregliasco, che sembra un tormentone, perché Bill Gates, il patron di Microsoft, ha detto non ci libereremo di questo virus per altri 2 anni, quindi vuol dire che è pessimista sul vaccino. Fauci, Anthony Fauci, che sa che è il virologo di riferimento della Casa Bianca, ieri ha detto scommetterei anche i miei soldi su novembre-dicembre, che ci sarà il vaccino a novembre-dicembre, e ha aggiunto poi Fauci che altri pensano addirittura che sia possibile entro ottobre. So che nel mondo ci sono 58 studi sui vaccini, 7 in fase 3, sappiamo che anche l'Italia insomma è a buon punto, anche se vediamo un po' che cosa succede, mentre oggi la società americana Moderna ha detto che entro novembre probabilmente riuscirà a distribuire 100 milioni di dosi di vaccino a inizio 2021. Anche su questo, professore, se lei ritiene che tutto sia prematuro, lo dica... Sì, secondo me sì, arriveranno velocemente, anche perché la pressione mediatica, gli interessi verso i vaccini sono una cosa molto rilevante. I tempi però anche nell'industrializzazione e nell'effettiva disponibilità dei vaccini per tutti non potrà che esserci non prima che almeno l'estate del prossimo anno. Per chiudere, professor Pregliasco, lei mi pare che abbia una buona notizia da darci a proposito dell'influenza dei mesi invernali. È vero, perché ci sono virus nuovi che sono all'orizzonte e che hanno circolato in Australia, ma nonostante la loro potenzialità diffusiva, in Australia veramente c'è stata una stagione molto mite e il governo australiano, versante influenza, quindi non su Covid, ha appunto evidenziato come tutti i provvedimenti riguardanti il Covid ovviamente hanno ridotto la quota di virus influenzale circolante. Quindi speriamo che tutto ciò si riproduca anche qui, però rimarchiamo quella che sarà la necessità di un'adesione alla campagna contro la vaccino contro l'influenza, proprio perché l'influenza di suo, una malattia che comunque a basso rischio specifico fa i suoi guai, i suoi danni, e sicuramente eseguendola, oltre a proteggere appunto dal virus influenzale come tale, ci aiuta un po' a ridurre quelle difficoltà di diagnosi che sono difficili da fare. Cioè il vaccino anti-influenzale potrebbe evitare di confondere magari certi sintomi col Covid, insomma, si farebbe più chiarezza e si potrebbe prevenire l'influenza. Grazie come sempre, professor Fabrizio Pregliasco. Grazie, buona continuazione. Grazie, professore. Breve pausa come sempre di riflessione, voi continuate attraverso i WhatsApp al 349-238-6666 oppure c'è la pagina Facebook di Effetto Notte per voi, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, e con gli altri temi torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, state ascoltando il vostro imprescindibile appuntamento della sera per conoscere tutto quello che di più importante è successo in Italia e all'estero. Un giorno non poter dire io questa non la sapevo. Roberta Giordano a raccontarvele e con gli ospiti ad approfondirle. C'è attraverso i messaggi 349-238-6666 e sulla pagina Facebook di Effetto Notte i vostri commenti. Bruno che scrive: ma scusa, al di là delle critiche, perché fare un servizio sul film dei Vanzina? Non hanno certo bisogno di pubblicità. Ora non è che si parla di una cosa se ha bisogno o non ha bisogno di pubblicità, ma il film di Vanzina, che è diventato un fenomeno social di critiche, diciamo, di polemiche, perché riguarda intanto un tema centralissimo, purtroppo nostro malgrado, nella nostra vita da mesi, il coronavirus in tutto il mondo, quindi non è che tratta un argomento qualsiasi. Lo fa evidentemente scherzando com'è e con leggerezza, magari com'è nel carattere dei Vanzina, e riguarda il cinema, che comunque è spettacolo, perché non è che l'informazione è soltanto politica e cronaca nera, e poi proprio perché è un fenomeno di costume social in tutti i sensi, e evidentemente ha colpito molto l'opinione pubblica se sono arrivate così tante critiche, così tanti messaggi. No, poi chi lo vuole andare a vedere lo andrà a vedere, chi no no, però insomma le notizie sono tante e non sono soltanto ristrette in alcuni ambiti. Comunque, adesso invece ci concentriamo su un'intensa giornata europea, perché... Intanto saluto il nostro Sergio Nava, naturalmente, caro Sergio. Ciao Roberta. Ciao Sergio. Che cosa è successo oggi? Dopo le linee guida che ieri il governo italiano ha trasmesso alle Camere su come intende utilizzare i recovery fund, questi 209 miliardi che la Commissione europea mette a disposizione dell'Italia per una ripresa dalla crisi economica dovuta al coronavirus, oggi la Commissione europea stessa ha pubblicato le sue linee guida con le priorità che vuole indicare e sottoporre ai vari stati. Poi, altra cosa, sempre in seno all'Europa, il Parlamento europeo ha chiesto sanzioni europee contro il presidente bielorusso Lukashenko, condannando allo stesso tempo le violente repressioni in Bielorussia. Sapete che sono state cosiddette elezioni presidenziali in Bielorussia il 9 agosto, però svolte, dice il Parlamento europeo, in flagrante violazione di tutti gli standard riconosciuti a livello internazionale. Poi sempre oggi, sempre il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui condanna fermamente l'avvelenamento del principale dissidente del presidente russo Putin, che è Alexei Navalny, sapete, è stato avvelenato, e questa risoluzione chiede l'avvio immediato di un'indagine internazionale sul caso e sulle presunte violazioni degli impegni internazionali in materia di armi chimiche della Russia e intanto esorta le autorità di Mosca a cooperare pienamente. Fra l'altro, sempre il Parlamento europeo invita gli Stati membri a prendere una posizione chiara, in particolare mettendo rapidamente in atto delle misure restrittive nei confronti della Russia. Sappiamo che, per esempio, la Lega, per quanto riguarda l'Italia, ha votato no a questa risoluzione, il Movimento 5 Stelle e il PD si sono spaccati perché i Dem hanno votato a favore insieme a Forza Italia, mentre gli eurodeputati dei 5 Stelle si sono astenuti insieme a Fratelli d'Italia. Bene Sergio, tutta materia tua, quindi da dove iniziamo? Ma allora iniziamo, seguiamo un po' il tuo ordine Roberto, iniziamo quindi dalle linee guida. Chiaramente erano sì molto attese, però va anche detto che è un po' un modello che la Commissione europea fornisce a tutti i governi per avere, come dire, è la traccia del tema, semplificando e ponendolo in termini scolastici. Cioè, è la traccia del tema che l'Europa dà a tutti i governi affinché i progetti per utilizzare il recovery fund, che ricordiamolo per l'Italia ammonta a circa, tra prestiti e sovvenzione a fondo perduto, 209 miliardi di euro, approvati appunto nel famoso vertice di 5 giorni di luglio. La Commissione dà queste linee guida affinché poi i governi si uniformino e cerchino di non uscire dal seminato, perché questo poi è il problema, lo sappiamo anche bene noi italiani, col timore che tutto ciò si disperde in mille rivoli, in micro progetti poi sostanzialmente non portano a crescita. Proprio per questo non ci sono grandissime sorprese. C'è una scadenza che è il 30 aprile 2021 per presentare i piani di rilancio. Italia, Spagna, Polonia e Francia sono i paesi più interessati in termini proprio di fondi, di finanziamenti. C'è una quota che riguarda all'interno delle spese che è del 37% per il green, cioè per tutto ciò che è verde, ecosostenibile, insomma, sì. Esatto, ricordiamo appunto che proprio sulla svolta verde la Commissione, prima che insorgesse questa pandemia, aveva molto puntato e poi, diciamo, ha reinglobato questa manovra all'interno di questo piano di ripresa post-pandemica. C'è anche un minimo del 20% per quanto riguarda le spese che deve essere destinato all'innovazione digitale. Dopodiché, chiaramente, abbiamo un po' di tutto: tecnologie pulite, fonti rinnovabili, efficienza energetica, trasporti pubblici, banda larga, fibra, digitalizzazione della pubblica amministrazione. Tutto quello che serve per ammodernarsi, per rilanciare. Sergio, invece, per quanto riguarda le due risoluzioni del Parlamento europeo, quella nei confronti di Lukashenko, presidente bielorusso, e poi... Sì. Partiamo dalla Bielorussia, perché effettivamente allora va detto che sono risoluzioni, il Parlamento non ha competenze, poteri in materia di politica estera, però in qualche modo può indirizzare il dibattito. Infatti a Minsk non l'hanno proprio presa bene questa risoluzione, questo fa capire, al di là del fatto che in questo settore il Parlamento non ha poteri veri e propri, però la sua voce non viene, se è irritante per qualche regime come il regime bielorusso, non viene accolta così bene. Ebbene, l'idea sostanzialmente l'hai un po' anticipato tu: il Parlamento non riconosce minimamente le ultime elezioni presidenziali, tanto che le chiama cosiddette elezioni presidenziali, anche perché dice sono state svolte in palese violazione di qualsiasi standard internazionale. Anche perché elettorale. È stato rieletto, tra virgolette, per non so qual è il mandato di seguito, sono un'infinità di anni, no, che c'è Lukashenko. Esatto. E dopodiché chiede sanzioni contro Lukashenko e contro il suo entourage. E dal 5 novembre, se ricordo bene, cioè quando scade l'attuale mandato, dice, ti aboniamo in qualche modo l'attuale mandato, frutto della precedente elezione, però dal 5 novembre, non ti riconosciamo più come presidente della Bielorussia. Va detto che lunedì si riuniscono i ministri degli esteri, ci sarà anche la candidata dell'opposizione, che attualmente è esiliata, si è All'estero. autoesiliata in Lituania. Che li vedrà e i ministri degli esteri porranno le basi, quasi certamente, a meno di, diciamo, intoppi l'ultimo momento, per sanzioni che poi i leader europei la prossima settimana, in un vertice straordinario molto dedicato alla politica estera, Decideranno. dovrebbero Senti, approvare. per E chiudere, quindi proprio un minuto ancora per invece l'avvelenamento di Navalny e le accuse nei confronti della Russia, anche una risoluzione, la richiesta del Parlamento europeo, degli Stati membri, insomma, di prendere ulteriori provvedimenti nei confronti della Russia. sì, esatto, qui apriamo anche una parentesi leghista perché la Lega, ecco, ha fatto molto discutere il comportamento della Lega sia sulla Bielorussia sia sulla caso Navalny, perché sulla Bielorussia si è addirittura astenuta, di fatto, non condannando quello che a tutti gli effetti un regime, e qualcuno della Lega dovrebbe spiegarci il perché. Sul caso Navalny ha addirittura votato contro, però qui è più, in qualche modo comprensibile perché le affinità elettive tra la Lega e Vladimir Putin le conosciamo bene e quindi è anche abbastanza comprensibile questa presa di posizione leghista. In questo caso, anche qui il Parlamento europeo in qualche modo scopre l'acqua calda, dice, il tipo di agente nervino, il Novichok, utilizzato può essere stato prodotto solo da un laboratorio militare statale, non da, diciamo, privati Da o criminali. privati. Per cui, punta il dito contro il mandante, l'unico mandante possibile, cioè Vladimir Putin, Visto che e chiede Navalny anche è il qui e principale condanna. dissidente. Esatto. Bene, grazie Sergio Ravo, un sacco di Grazie notizie a quindi che voi. arrivano anche dall'Europa. Ciao Sergio, grazie. Aggiornamenti per chi viaggia. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sempre Roberto Giordano con voi. Adesso, prima abbiamo parlato, appena parlato di tutti i provvedimenti presi oggi in seno all'Europa, adesso invece, ci concentriamo su alcune delle inchieste principali di questi giorni, dei fatti più sconcertanti. Raffaella Calandra, ciao Raffaella. Ciao Roberto, che è il nostro ascoltatore. Allora, gli ultimi sviluppi sia dell'omicidio di Willy Duarte sia del delitto, dell'uccisione di padre Malgesini a Como, no? Mi pare che il principale sviluppo per quanto riguarda gli accusati dell'omicidio di Willy sia questo, aver percepito il reddito di cittadinanza in modo illegale, Raffaella, anche se non c'entra, diciamo, con l'omicidio, Appunto però. Roberta, questo è un elemento che di sicuro sconcerta, che viene fuori ora che si sta indagando, dopo l'omicidio sulle persone che sono accusate appunto dell'omicidio volontario del ragazzo 21enne, ma evidentemente, come giustamente ricordavi, non ha a che fare con la violenza in sé, con l'omicidio in sé, ma pone a mio avviso una domanda: com'è possibile che si sia, diciamo, scoperte, che quindi si sia indagata sull'assegnazione del reddito di cittadinanza a persone che, a giudicare dallo stile di vita che loro stessi mostravano con foto nei resort, in posti molto esclusivi di vacanza, con grande sfoggio di orologi importanti e anche di una cura particolare del proprio corpo, di sicuro non davano segni di essere indigenti, di essere quei poveri per i quali questa misura di sussidio è stata prevista. Quindi questo, diciamo, c'entra tangenzialmente con le inchieste soltanto perché fa venire questo interrogativo del perché solo in questo momento, nel momento in cui un omicidio così grave ha centrato l'attenzione su questi indagati, si sia a sua volta indagato sul meccanismo di assegnazione del reddito di cittadinanza, che è stato appunto, pare sia stato richiesto dal padre dei due fratelli bianchi, ma che era percepito anche dagli altri due indagati. Purtroppo però la cronaca, cara Roberta, i nostri ascoltatori lo ricorderanno, ci ha già mostrato diversi altri casi di assegnazione del reddito di cittadinanza a personaggi che di sicuro, diciamo, ponevano diversi interrogativi. A me ora ne viene in mente una soprattutto, la ex brigatista Federica Saraceni, condannata per il delitto del giuslavorista Massimo D'Antona. Sì, tante le polemiche, effettivamente qualche controllo più stringente appare quanto mai necessario. Insomma, senti, invece sul caso di Don Malgesini, il prete degli ultimi ucciso a Como, il suo assassino reo confesso ha ritrattato oggi, però ha detto che lui non c'entra nulla. Ha detto che lui non c'era, dopo essersi lui stesso costituito, aver ammesso, aver dato dettagli sull'omicidio, quindi sembra più un tentativo difensivo di allontanare da sé responsabilità e accuse estremamente gravi che non una vera ritrattazione, ma saremo a vedere ovviamente gli sviluppi, anche perché il GIP invece ha confermato da parte sua la capacità di intendere, di volere, quindi non può essere considerato uno squilibrato che quindi non può essere giudicato perché appunto non capace di intendere e di volere, quindi il giudice ha stabilito che invece lo era. E a me ora questo omicidio ha fatto ritornare in mente un altro caso di esattamente 20 anni fa, quando sempre nella Valtellina, dove ora è stata portata la salma di Don Roberto nel suo paese d'origine, veniva ammazzata una suora Maria Laura Mainetti da tre ragazze italiane. Ecco, diciamo, era anche quella una religiosa che si prodigava molto per gli ultimi, per le persone che erano più in difficoltà e ai margini della società, ammazzata da tre ragazze italianissime. Ecco, due casi diversi, ma che allo stesso tempo sono almeno si sono accostati nella memoria, non solo per la comune origine delle due vittime, ma anche per una, diciamo, anche diversa reazione rispetto agli autori di questo reato, insomma. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. Buona serata. Ciao, buona serata. Adesso invece direi di chiamare in causa il nostro Paolo Corazzone di Trevi Meteo. Caro Paolo. Sì, buonasera Roberta, eccomi. Pensavo tu fossi già l'inseguimento. Inseguitore di cicloni, di solito all'estero, però un ciclone sta interessando anche lo Ionio e quindi regioni del sud, dell'Italia, sì, Calabria, Campania, Puglia. Situazione molto particolare oggi. Sicilia. E guarda, possiamo anche dire che forse c'è andata anche bene, perché quello che si è formato sullo Ionio a tutti gli effetti è molto simile a un vero e proprio uragano. Li chiamiamo Medicains, sarebbe Mediterranean Hurricanes, quindi uragani mediterranei, e sono appunto simili agli uragani americani ad esempio, però il vantaggio è che sono molto più piccoli e quindi ha sfiorato le coste ioniche oggi, ma è rimasto al largo sul mare, quindi abbiamo avuto sì situazioni difficili ad esempio sulla Calabria ionica, inondazioni, anche Capo Rizzuti in difficoltà, venti molto forti, hanno soffiato fino a 120 km all'ora sullo Ionio, però appunto per fortuna non ha dato il peggio di sé sulle nostre regioni, mentre temo che lo darà sulla Grecia, perché adesso si sta spostando verso la Grecia e domani la investe in pieno, mentre da noi è rimasto sul mare. Invece il Peloponneso domani viene attraversato proprio da questo uraganino, che però domani avrà 20 addirittura oltre 150 all'ora, figurati te, piogge torrenziale, quindi poveretti, temo che sarà una giornata davvero molto difficile domani per alcune zone della Grecia. Mentre da noi migliora, già sta migliorando adesso, quindi siamo fuori pericolo in qualche modo. Si lascia dietro un po' di vento, quello sì, domani al sud, giornata ventosa, però non venti pericolosi. Quindi, tra virgolette, c'è andata bene, anche se appunto alcune zone oggi se la sono vista con le cortine, per carità. Senti, ma potrebbe fare gravi danni in Grecia? O... Temo di sì. Saranno avvertiti, davvero, però voglio sperare. I 150-160 all'ora noi li avevamo provati sul nostro territorio un paio di anni fa col disastro che è capitato al nord-est, non so se ti ricordi. Con tutti gli alberi che sono entrati in Alto Adige, esatto, mi ricordo. La Liguria con stabilimenti balneari completamente distrutti e soffiavano a quell'intensità i venti. E domani rischiano di essere simili appunto almeno nel Peloponneso. Quindi temo davvero che sarà una giornata molto molto difficile per la Grecia. Sì. Grazie Paolo Corazzone di Trevi Meteo. Un abbraccio, caro Paolo. Buona serata, ciao. Il calcio invece è finita la partita del Milan. Giovanni Capuano, mi sembra di vedere. Vedo bene. È finita bene. Da pochi minuti, ah. Roberta, ed è finita con il successo dei rossoneri per 2-0. Dunque Milan che passa il primo turno preliminare, batte 2-0 lo Shamrock Rovers e se la dovrà vedere contro i norvegesi del Bodo Glimt il 24 settembre, gara sempre secca che si giocherà però questa volta a San Siro, ovviamente a porte chiuse. E i marcatori, curiosamente, tutti e due i gol sono arrivati al 22esimo minuto del primo tempo, lo ha realizzato, lo avevamo già raccontato, Zlatan Ibrahimovic, che ha chiuso un dialogo con Çalhanoğlu scaricando un destro sul primo palo, e poi al 22esimo della ripresa il raddoppio dello stesso Çalhanoğlu con un bel destro dal limite dell'area di rigore dopo un lungo fraseggio, l'ultimo tocco, l'assist gli è stato dato da Salemakers. È stato un buon Milan che ha più volte cercato la via della rete, ha colpito anche una traversa con lo stesso Çalhanoğlu nella ripresa con una rovesciata che aveva sorpreso il portiere dello Shamrock Rovers. Milan che ha rischiato pochissimo in quelle occasioni create dagli irlandesi, ci ha messo la sua mano Gigio Donnarumma, e dunque alla fine la vittoria è meritata. Milan che era nettamente superiore allo Shamrock, c'era però il problema della condizione atletica, perché Milan che veniva soltanto da tre amichevoli, mentre gli irlandesi sono già nel pieno della loro stagione, e questo dal punto di vista del dinamismo poteva creare qualche preoccupazione. Fortunatamente è andata bene, dunque ti ribadisco il finale a Dublino: il Milan ha battuto 2-0 lo Shamrock Rovers, reti di Ibrahimovic e Çalhanoğlu, e dunque il 24 settembre affronterà il secondo dei tre gradini verso i gironi contro i norvegesi del Bodo Glimt. Grazie Giovanni Capuano, e con questo chiudo, poi sapete che torno brevemente ad aggiornarvi alle 22.